Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Si piange, si ride, due emozioni diverse, un denominatore comune, le lacrime. Le ricerche dicono, e l'esperienza soprattutto conferma, che a lasciarle scorrere senza reticenze né pudori fa bene. Pensate che secondo William Frey, che è un ricercatore dell'Università del Minnesota che alle lacrime ha dedicato anni di studio e di ricerca, le persone proprio sono in grado di descrivere, di raccontare meglio le loro emozioni dopo aver pianto. Voi concordate? Ma c'è di più: in un futuro abbastanza prossimo, le lacrime potrebbero servire a fare diagnosi. In linea con noi il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano. Dottor Speciani, buongiorno. Buongiorno, partiamo anziché con un sorriso, con un piantino. Però va bene. Però sì. versiamo anche lacrime quando ridiamo a crepapelle. Assolutamente, secondo me, guarda, c'è un aspetto, ci sono delle ricerche nuovissime, recentissime, sul rapporto tra lacrime ed espressione del proprio profondo, se vogliamo, che torna quindi anche ad una bella simbologia di riferimento. Noi ad esempio, cioè ho letto di queste valutazioni fatte effettivamente anche da alcune equipe internazionali sul rapporto, ad esempio l'Università del Galles, fondamentalmente sulla possibilità di analizzare una serie di parametri dal contenuto lacrimale. Noi stessi, io sto lavorando moltissimo sull'infiammazione da cibo, come a volte è capitato di raccontare anche da voi in trasmissione, e ad esempio abbiamo identificato che possiamo, attraverso il sacco lacrimale, identificare dalla lacrima esattamente qual è il livello di infiammazione di una persona. Poi questo sarà utilissimo, però quando noi abbiamo iniziato a lavorarci, devo dire, abbiamo fatto una considerazione estremamente critica. Cioè, oggi culturalmente la gente accetta di farsi buchini nelle dita, prelievi venosi e cose, ma toccare gli occhi anche solo con un batuffolo, no? Tocchi un batuffolo, prelevi una lacrima e la analizzi. Quando 25 giorni dopo tu hai un'irritazione, dici: ah, è stato il medico che mi ha toccato. Cioè, gli occhi sono una cosa che la molto, gente... Sì, molto intima. Intima, delicata, cioè, quindi andare a sondare, è vero che esprimono tutto, quindi esprimono emozioni, forza, le lacrime riescono addirittura ad esprimere la parte metabolica interna del nostro essere, però io sono dell'idea che forse è meglio lasciare gli occhi, diciamo, agli sguardi penetranti, alla capacità di, come dire, di entrare in contatto in maniera differente. Teniamola da conto per la scienza, però ecco, questo piccolo spunto di riferimento mi piace farlo. Grazie dottor Speciani per essere stato con noi, buona giornata, e anche a lei qualche lacrimina, almeno di riso. Va bene, senz'altro. Va bene, buona giornata. A presto. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose. Dopo tanti e tanti mesi ora so cosa sono per te. Le nostre nonne dicevano che le lacrime facevano venire gli occhi belli, ma di che lacrime parlavano? Perché le lacrime non sono tutte uguali. Come sa bene il dottor Francesco Loperfido, responsabile degli ambulatori di oftalmologia generale dell'unità operativa di oculistica dell'Istituto Scientifico San Raffaele e consulente oftalmologo della Commissione Difesa Vista. Buongiorno dottor Loperfido. Buongiorno, buongiorno. Le nostre nonne avevano ragione, perché i nostri occhi hanno bisogno di lacrime e infatti le hanno in dotazione una buona quantità. Indubbiamente sì, anche se dobbiamo precisare che la lacrima all'inizio non esiste nella nascita di un bambino, poi ha un massimo picco di produzione nella fase più evoluta, per poi decrescere ancora nella fase tardiva dell'età. Quindi la lacrimazione ha un suo picco massimo nell'età fiorente nostra, per poi decrescere con l'età, ma decresce sia come quantità che come qualità. Ma noi come facciamo, dottor Loperfido, a sapere se abbiamo lacrime a sufficienza, non solo per piangere o per ridere, ma per tenere in salute il nostro occhio? esistono dei test che tendono a valutare sia la parte qualitativa della lacrima sia la parte quantitativa della lacrima. Indubbiamente le due cose sono importantissime, soprattutto poi se un soggetto usa lenti a contatto, ma anche il mancato uso di lenti a contatto, ma un'alterazione della qualità o della quantità del film lacrimale possono determinare sicuramente dei pesanti problemi sulla superficie corneale. Noi sottovalutiamo la lacrima nella sua importanza totale, ma in realtà la lacrima ha una funzione vitale per la sopravvivenza della cornea. Dottore, spesso si va dall'oculista perché si hanno gli occhi umidi, ma c'è anche il problema opposto. Si chiede la consulenza di un medico proprio perché invece abbiamo gli occhi che sembrano secchi, con quasi come con dei pulviscoli dentro, la sensazione sgradevole di avere la sabbia negli occhi. Noi ci autodiagnostichiamo una congiuntivite. Dottor Lo Perfido, sono due problemi che sembrano molto diversi, ma in realtà sono due facce della stessa medaglia. Perché? Perché in realtà un occhio che lacrima potrebbe essere un occhio asciutto. Automaticamente un occhio asciutto è un occhio che determina un aumento degli attriti della superficie corneale, e automaticamente questo determina un problema non indifferente sulla superficie corneale. Quindi molto spesso quando un paziente ci dice c'è il nostro occhio che lacrima, fondamentalmente potrebbe essere alla base invece l'opposto, un occhio asciutto. Allora, dottor Lo Perfido, noi oggi vogliamo parlare lacrime e dintorni. Quando vorrei chiedere anche ai nostri ascoltatori, lo stanno già facendo, di raccontarmi l'ultima volta che hanno pianto e l'ultima volta che hanno riso. Dottor Lo Perfido, si ricorda quelle risate che si facevano al liceo? Erano quasi contagiose, la ridarella, dove proprio venivano giù le lacrime. Ma oggi noi vogliamo capire quanto e quali lacrime abbiamo e soprattutto se sono nella quantità e nella qualità adeguati per i nostri occhi. Quindi noi invitiamo tutte le persone a chiamarci all'800 24 00 24 per raccontarci non solo le loro emozioni, ma anche le sensazioni che avvertono a livello dei loro occhi, se li sentono secchi, se li vedono rossi, se sentono una sorta di prurito. Dottor Lo Perfido, vuole aggiungere qualche categoria di persona? Assolutamente sì. Allora, dobbiamo considerare che la lacrima si altera anche nelle condizioni non solo patologiche, di cui poi verremo a parlare, ma si alterano anche nelle condizioni fisiologiche o parafisiologiche. La gravidanza è una di queste condizioni dove spesso la differenza ormonale che avviene per la crescita del bambino può determinare un'alterazione della qualità e della quantità del film lacrimale. Quindi alle mamme, alle ascoltatrici che sono in attesa di un bambino, chiamate, soprattutto diteci se i vostri occhi sono un po' diversi. E poi dottor Lo Perfido, molte persone in questo periodo lamentano proprio una sensazione di sgradevolezza, di malessere ai nostri occhi, sono all'inizio quando le nostre case iniziano a essere riscaldate, o alle persone che lavorano anche molte ore al computer. Assolutamente sì, noi dobbiamo dividere le condizioni dell'alterazione del film lacrimale su varie fasi. Una potrebbe essere di origine appunto meccanica, una di origine ambientale, e questo non è da sottovalutare, soprattutto perché gli ambienti non sono sempre umidi, anzi l'ambiente spesso è secco, e come si asciuga l'ambiente si asciuga il nostro occhio. L'altra valutazione è sull'aspetto invece delle patologie oculari o sistemiche che possono indurre un'alterazione lacrimale, e per ultimo non dimentichiamoci le classiche alterazioni legate alle allergie, dove non si intendono solamente allergie stagionali e primaverili, ma molto spesso le allergie sono anche quelle determinate da intolleranze alimentari o allergie alimentari. Tutte queste forme possono determinare un'alterazione del film lacrimale. In alcuni casi si hanno dei calassi, quindi delle infiammazioni del bordo parafebrale, che sono una conseguenza e a volte anticipano quella che è un'alterazione della parte lipidica della nostra lacrima. Sa quando tornerà Amanda? Dovevo prendere un paio di cose. Veramente Amanda è in Inghilterra, in vacanza. Io starò qui un paio di settimane mentre lei è via. Ah. Oh, tutto bene? Oh, sì. Mi è entrato qualcosa nell'occhio. Ah, io non lo sopporto, mi faccia vedere. Sì, ha qualcosa tra le ciglia, vuole che lo tolga? Ok, allora, grazie. È colpa del Sant'Anna. Prego? Del vento. Capita che qualcosa anche di molto piccolo come un granello di polvere entri nell'occhio, che diventa rosso, inizia a lacrimare, ma intanto Paolo ci chiama da Roma, do subito la linea a lui, 800 24 00 24. Potete seguirci come sempre su Facebook e su Twitter. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Allora, prima di tutto un ringraziamento a lei in maniera particolare, perché è terapeutica per tutti i miei mali. Oh, magnifico. Il suo timbro di voce, il suo modo di parlare. Ma questo mi, guardi, mi fa molto piacere. Adesso mi viene da piangere ed è per questo che ho telefonato. È incredibile. Chiedo scusa, prova a riprendermi. Allora, io ogni volta che trovo qualcosa di positivo, di bello, fatto bene, fatto con amore, mi viene da piangere. Sì, si commuove. Mi commuovo, bravissima. E questo è un problema che... non so se è la vecchiaia, mi sento abbastanza giovane, non mi sento così rimbambito da lasciarmi trasportare dalle emozioni gratuite, però io ogni volta che trovo qualcosa di positivo, di bello, la sua voce o il comportamento di una persona che fa il proprio dovere senza nessun obbligo particolare, mi fa piangere, mi vengono le lacrime, mi sgorgano le lacrime. Ma questo... l'avrò notato anche tra un attimo fa, lei. Ecco. Mi riprende adesso. Qual è il motivo? Ma il motivo forse non c'è un motivo particolare. Anch'io mi commuovo quando vedo qualche cosa di bello, una persona mi fa un complimento, e non è una debolezza, ma è sicuramente un modo di vedere la vita, di ringraziare anche, non trova? Forse, ecco, questo di ringraziare forse è la cosa più giusta. Paolo, si tenga un po' le sue lacrime, ma non pensi di avere qualche cosa di diverso, che siano male, anzi è una bella cosa, si commuove per le cose belle. Complimenti Paolo, l'abbraccio e la saluto, buona giornata. Grazie. Dottor Lo Perfido, sono qui. Dottor Lo Perfido, l'emozione fa cadere le lacrime. Noi abbiamo detto che ci sono lacrime di diversi tipi. Ci sono le lacrime che, come a Paolo, no, scendono quando è particolarmente felice o un po' triste, e quindi sono le lacrime legate alle emozioni. Ci sono le lacrime invece legate al benessere del nostro occhio, quelle che gli servono un po' a essere lubrificato, un po' come funziona la saliva per la nostra bocca, e poi ci sono le lacrime che, come dei soldatini di difesa, arrivano a difesa del nostro occhio quando magari è aggredito dal granello di sabbia, di polvere che abbiamo sentito prima, o magari una persona involontariamente ci infila un dito nell'occhio. Ma hanno tutti la stessa composizione queste lacrime? Assolutamente no, perché la lacrima ha due componenti, ha una componente primaria e una componente secondaria. Noi abbiamo due tipi di ghiandole, le ghiandole accessorie che danno una lubrificazione costante al nostro occhio, e poi abbiamo una lubrificazione primaria che è determinata da una ghiandola riflessa che risponde agli stimoli, che possono essere o emotivi o molto spesso determinati dal corpo estraneo. Queste due cose incidono in maniera pesantemente sulla qualità e sulla quantità della nostra lacrima, e quindi la modificano. E poi ha usato un discorso giusto, ha detto come la nostra saliva. Non dimentichiamoci che esistono delle patologie autoimmuni o delle patologie sistemiche che possono provocare un'alterazione sia del film lacrimale, sia della saliva, e sia anche un po' delle articolazioni. E questa si chiama appunto sindrome di Sjögren, che è molto importante, perché molte volte è sottovalutata ed è alla base del nostro discorso. Dottor Lo Perfido, torniamo al nostro granellino di polvere, perché noi volevamo proprio su questo concentrare la nostra attenzione e dedicare a questo problema, che è abbastanza frequente, il nostro quizzettone. Se un granello di polvere vi entra nell'occhio, voi che fate? Soluzione numero uno, cercate di eliminarlo aiutandovi con un fazzolettino di carta. Soluzione numero due, lavate abbondantemente l'occhio con acqua. Soluzione tre, chiudete l'occhio ed eseguite dei movimenti circolari con la speranza che il granello si sposti in una posizione più facile da raggiungere. 800 24 00 24, dateci e diteci secondo voi qual è la soluzione più corretta per togliere un piccolo corpo estraneo che per il vento, come abbiamo sentito nella nostra clip, o per qualunque altra ragione entra nel nostro occhio, talvolta basta una ciglia, e legheremo la migliore risposta, quella che il dottor Lo Perfido da oculista riterrà la più corretta per il benessere del nostro occhio. Faremo ricevere a casa Guida al benessere, il libro che ho scritto con Alberto Pellai e Paola Reverso a proposito di benessere. Andiamo a Valentina, che ci chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Allora, sono emozionatissima. Okay. Oggi che parliamo di lacrime, Valentina, sì. Ma lo notavamo con Laura Vanossi, sentendo ridere o sentendo piangere in qualche modo qualcosa si attiva, e oggi che parliamo di lacrime molti ascoltatori mi scrivono: bene, mi emoziono già all'idea di sentir parlare di lacrime. Sì, si vede che un stamattina argomento... ne ho già fatto un pezzettino, così, giusto per... Valentina, mi dica. Allora, io lavoro con i bimbi e per cui è sempre un ridere e ridiamo proprio a piangere. Sì, si ride da piangere. Ridiamo da piangere, diciamo. E poi, siccome ho 54 anni e sono andata in menopausa proprio da pochissimo, ho le lacrime in tasca, come si suol dire. Le lacrime in tasca. Pianco per niente. Però è un po', dovrebbe parlare con Paolo, dovremmo metterle in contatto con Paolo da Roma, Valentina, così vi fate dei piantini insieme. No, però sono fondamentalmente positiva, molto contenta della vita, sì. E tutto quanto. Però volevo chiedere una cosa, visto che dopo tutto questo lacrimare io ho le lenti a contatto perché sono abbastanza miope, la miopia è importante. Che succede? Dopo si seccano gli occhi. Si seccano gli occhi. E troppo sale delle lacrime. E posso usare abitualmente un collirio tipo una lacrima artificiale? Era questa la domanda. Brava Valentina, chiediamo subito un consiglio al dottor Lo Perfido. Valentina è un profilo perfetto. Donna in menopausa, lacrime in tasca, porta le lenti a contatto, sente l'occhio rosso e dice: metto la lacrima artificiale. Dottor Lo Perfido. Bene, mi ha dato molte informazioni in un attimo solo. Il primo discorso fondamentale è che la signora è in menopausa. Sa perché? Perché è importantissimo sapere che nelle donne la quantità di calcio nel film lacrimale è il doppio rispetto a un uomo. E questo soprattutto in una fase di menopausa. Quindi già questo provoca. E questo cosa vuol dire? Questo cosa vuol dire? Tradotto vuol dire per che noi la... che non siamo medici, dottor Lo Perfido. Perfetto. Che la quantità di calcio che viene prodotta e che si produce, diciamo, si elabora e si spalma col film lacrimale sulla superficie lente a contatto può sporcare maggiormente la lente a contatto e renderla quindi una lente meno stabile. Sì. La seconda cosa, non ci ha detto la signora che tipo di idratazione è la lente a contatto. Cioè, esistono lenti a contatto a bassa, alta, media idratazione, e questo comporta per assurdo che la lente più idratata è quella che si asciuga di più, perché abbiamo uno shunt passivo in cui l'occhio non riesce a idratare. Un consiglio però, dottor Lo Perfido, per le persone che portano le lenti a contatto e che in menopausa o non in menopausa, donne e uomini che siano, avvertono una sorta di secchezza oculare o rossore, che cosa si deve fare? Allora, soprattutto rapidamente, prima dei mercati, andiamo. Ok, sicuramente la lente a contatto deve essere una lente a contatto giornaliera. Seconda, una lente a media bassa idratazione. Terzo, idratare spesso l'occhio. Quarto, una cosa non da dimenticare è che l'uso anche di alcuni conservanti a volte possono, e nessuno lo sa, possono alterare la qualità del film lacrimale, quindi deve esserci un rapporto estremamente valido tra tipo di conservante usato e il materiale di lente a contatto usata. Allora, grazie al dottor Lo Perfido che resta con noi. Intanto voglio salutare il professor Claudio Mencacci, che abbiamo il piacere di avere in linea. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno ascoltatori. Psichiatra, direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'azienda ospedaliera Fate Bene Fratelli di Milano, con cui subito dopo i mercati e il meteo parleremo di un tipo particolare di lacrime. Il sole sta per tramontare. che sorridono ed io son qui con le mie lacrime così. Insieme al professor Mencacci vogliamo parlare di un tipo particolare di lacrime. Professor Mencacci, le mamme spesso si confrontano con questo bisogno di piangere, si sentono in colpa, il bambino è piccolo, devono accudirlo, spesso il compagno e i genitori, la famiglia spiega queste le lacrime cosiddette in tasca come un momento di debolezza, di stanchezza. In realtà sono lacrime da guardare un po' con attenzione. Perché, professore? Proprio così, perché quando le cosiddette lacrime del latte, che sono delle neomamme, è un momento molto particolare, fisiologico, che viene chiamato maternity blues, proprio caratterizzato da questa grande sensibilità, una facilità al pianto, all'emozionarsi. Noi diciamo bisogna prestare attenzione a questo momento fisiologico, perché 2 su 10, cioè il 20%, svilupperà invece un disturbo depressivo successivamente. Quindi è un numero, come dire, ristretto, ma le lacrime hanno un significato, hanno il significato fondamentalmente dell'esprimere emozioni, ma hanno anche il significato di esprimere movimenti di carattere biochimico e anche ormonale che devono essere in un periodo di tempo dopo la nascita monitorati, diciamo solamente prestare attenzione e non banalizzare quello che può trasformarsi in una vera e propria sofferenza e non in un momento transitorio di emotività. Professor Mencacci, avrei bisogno che lei desse un consiglio alle ascoltatrici che neomamme che si trovano un po' descritte in questa situazione, e anche un consiglio ai compagni o ai familiari che spesso... Io assolutamente per affetto tendono a sottovalutare la cosa, dire dai forza perché non dormi, ecco, allora due consigli. Beh, primo consiglio è di mantenere sempre un canale diretto con i propri familiari e il proprio partner, non avendo vergogna di esprimere i propri stati d'animo, che quando diventano con la perdita di provare piacere di stare con il proprio bambino o con un sentirsi sempre più inadeguate come madre o di sentirsi allontanate da un momento che potrebbe essere faticoso ma nel contempo anche molto gioioso, bene, l'unica cosa è superare la vergogna di non, per dire, di non pensare di non essere all'altezza, ma di chiedere aiuto. Sono momenti fisiologici ma che possono diventare anche di grande sofferenza e quindi una vera e propria patologia con conseguenze sicuramente sulla donna, sul bambino e anche su tutta la famiglia. E poi va ricordato una cosa, che è vero che le lacrime esprimono le nostre emozioni, ma c'è un criterio, è che se dopo aver pianto la persona si sente sollevata e si sente meglio, questo ha l'indicazione proprio di avere svolto un'azione di detensione, ma se dopo le lacrime sente ancora il bisogno di piangere e tutto avvolto in una profonda cupezza o senso di inadeguatezza, questo ha un altro significato. Ecco, sono le stesse lacrime. Quando il pianto non è liberatorio, proprio così. Ecco, pensateci. Ed è un aspetto bello, come si apposta, piangiamo nel riso e piangiamo anche nel pianto di sofferenza e di dolore, ma è proprio il significato liberatorio che esso va a interpretare, quindi senza vergogna esprimiamo le nostre emozioni, ma teniamo conto di quando queste sono poche lacrime e la percezione dentro invece di sentirsi ancora congelati o pietrificati. Grazie professor Mencacci per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Grazie a voi gli ascoltatori. E noi abbiamo in linea Massimo dalla provincia di Monza. Monza, ma mi chiedono al 349-238-6666, intanto il dottor Lo Perfido è finalmente arrivato qua in studio, mi chiedono di raccontare e di nuovo il nostro quizzettone. Allora, se un granellino di polvere entra in un occhio, io metto un granellino, ma dottor Lo Perfido, potrebbe essere una ciglia, che cosa potrebbe essere? Un corpetto estraneo, piccolo naturalmente. Cosa fate voi? Cercate di eliminarlo aiutandovi con un fazzoletto di carta. Lavate abbondantemente l'occhio con acqua, oppure chiudete l'occhio ed eseguite dei movimenti circolari con la speranza che il granellino si sposti in una posizione più facile da raggiungere. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde per rispondere al nostro quizzettone, per fare domande al dottor Lo Perfido, per raccontare come, quando e perché versate le lacrime. Soprattutto il professor Mencacci ci ha dato un'indicazione in più importante: il vostro pianto. Si piange per dolore, per tristezza, ma anche per gioia. È liberatorio oppure da pianto nasce pianto? Perché vi dico di intervenire? Perché tra le telefonate che arriveranno da adesso sino a mezzogiorno, comunque nel corso della trasmissione, il dottor Lo Perfido, alla fine di Essere Benessere, sceglierà 5 telefonate che non sono potute andare in onda e darà all'ascoltatore una risposta, vero dottore? Quindi sì, voi continuate a chiamare, 5 di voi potranno essere contattati direttamente dal dottor Lo Perfido. Di provare a fare questa sorta di servizio quando gentilmente i miei esperti si prestano a fermarsi di più per dare più risposte possibili, dato che la trasmissione vola e non c'è tempo di dare risposte a tutti, volevo venirvi incontro. Se vi piace fatemelo sapere. Massimo dalla provincia di Monza, eccomi. Sì, buongiorno. Eccomi. Chiamavo perché io ho una figlia di 2 anni e 7 mesi che dalla nascita ha un problema a un occhio. In pratica, quando c'è freddo o quando c'è parecchio vento, lacrima. Ha un occhio che lacrima. Fatta una visita è stato diagnosticato un dotto lacrimale ostruito. Volevo sapere se c'era un rimedio. Per questo, se c'è un modo per aiutare la bambina. Grazie Massimo. Grazie, dottor Lo Perfido. Sì, assolutamente sì. È diffuso questo problema non solo nei bambini ma anche negli adulti, e si può presentare anche nel tempo con 2 modalità diverse. Sì. Nei bambini effettivamente il problema è presente al primo anno di nascita, a volte anche al secondo. In questo caso bisogna porre un rimedio, a volte semplicissimo, con cui si risolve il problema, è quello di massaggiare verso la radice del naso fino al puntino lacrimale, con un massaggio che va dall'esterno verso, cioè dalla parte più bassa verso la radice, verso poi l'occhio, in modo che in questo modo andiamo a togliere quella secrezione che si può determinare sul puntino lacrimale all'inizio del dotto lacrimale, determinando così un tappo. Tutto quindi ciò si massaggia, mi scusi se ho capito bene, si massaggia la palpebra inferiore, giusto? Sì, ma verso il puntino, cioè esattamente tra la radice del naso e la palpebra inferiore. Sì. Proprio lì c'è il dotto lacrimale, che chiaramente a volte è ostruito da una secrezione piuttosto densa. E allora questo lavaggio comporta liberare il dotto da questa secrezione, e automaticamente questo va fatto 3, 4, 5 volte al giorno, e poi dopodiché può essere messa una lacrima artificiale e con la lacrima fare il movimento al contrario. Questo per creare un effetto suzione della lacrima. Adesso poi chiederemo a Laura Vanossi di riprendere il dottor Lo Perfido, lo mettiamo su Facebook, il massaggio per il dotto lacrimale, in modo che facciamo noi poi prima e dopo la lacrima. Ci sta? Volentieri. Che così lo facciamo proprio per bene. E subito dopo? Subito dopo questa situazione dovrebbe già migliorare intorno ai 3 anni. Chiaramente, se questo non avviene con tutte le manovre fatte in maniera saggia e continua, sono 2 cose fondamentali, si può poi fare un proprio lavaggio delle vie lacrimali attraverso una visita oculistica e attraverso proprio un lavaggio vero e proprio. Questa è la seconda fase, ma credo che già con la prima le cose molto spesso vanno a posto. Sia per gli adulti che per i bambini. Questo per i bambini. Per l'adulto è invece diverso, perché può avvenire una chiusura del dotto lacrimale nel tempo per una concreazione della lacrima o per depositi, sì. E qui il problema diventa un po' più serio, perché a volte invece bisogna valutare a che punto c'è l'ostruzione e liberarla con un piccolo intervento. Perfetto. In anestesia locale, a volte intervento in anestesia locale, a volte basta con uno spacillo fare un lavaggio delle vie lacrimali cercando di forzare questa area. Se ci riusciamo bene, è chiaro che se ci riusciamo vanno fatte più di una volta. Tesoro, un bel pianto è come una pioggia purificatrice, lava via tutto ciò che hai dentro. Insomma, voi donne dite sempre che volete vicino a un uomo sensibile, un uomo vulnerabile che sa anche piangere. Credimi, Cheryl, non è vero. Oh, che ne sai di quello che vogliono le donne? Io ne so molto sulle donne. So che vogliono un uomo forte, un uomo vero, il tipo che si tiene dentro tutte le sue emozioni. Io ti dico che sarei fiera di avere un uomo capace di emozioni profonde e di compassione. Sbagliato, Cheryl. Facciamogli affettare qualche cipolla. Dottor Lo Perfido, le ricerche dicono che noi donne piangiamo più degli uomini, che noi sappiamo versare più lacrime. È vero o non è vero? Ma questo è vero, anche se c'è un proverbio che dice: diffida da un uomo che non sa versare una lacrima. Ecco, quindi. Andrea Ribaldone in linea con noi. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti, ciao Nico. Cuoco stellato. Senti Andrea, io direi le lacrime servono. Il professor Mencacci faceva riferimento al pianto liberatorio. Il dottor Lo Perfido, come oculista, ci dice: sono assolutamente essenziali per il benessere degli occhi. Però io penso, non buttiamole. Cioè piangiamo quando siamo emozionati, piangiamo per lubrificare il nostro occhio, ma le lacrime della cipolla possiamo evitarcele. Come? Allora, il mio segreto che oggi vi do è: riempite il lavandino d'acqua, la tagliate in quattro e la lasciate 20 minuti in acqua fredda. Poi le scolate e a quel punto potete affettare tranquillamente, perché la parte volatile verrà pian piano tolta dall'acqua e quindi vi fanno piangere, ma molto molto meno. Ma cambia la varietà di cipolla? Ci sono cipolle che fanno piangere più di altre? Ci sono cipolle più forti, con una parte volatile più invasiva, quindi che fa piangere di più, tipo la cipolla dorata, lo è sicuramente più forte, va bene ad esempio per fare gli stufati, è più saporita e più decisa, ma fa piangere di più. È una cipolla favolosa, buonissima, ma dovete avere questa accortezza di tagliarla e metterla a bagno prima di tagliarla definitivamente. Quindi tu che cipolle consigli? Allora, io consiglio davvero questa cipolla dorata, che è fantastica, perché di Castelnuovo. È della zona tua? È della mia zona, e in questi giorni, se avete voglia di assaggiarla, siamo a Torino con tutta una serie di prodotti straordinari sotto Monferrato Circus, che è questo bellissimo tendone da circo dove ci sarà uno spettacolo circense insieme alla degustazione dei prodotti, tra cui anche questa anche la cipolla. Sì, allora sì. Verremo. E non vi farà piangere, ve lo prometto, vi farà divertire. Piangere è piangere dalle risate. Esatto, esatto. Grazie ad Andrea grazie Ribaldone, Nico, per essere stato con noi. Vi aspetto, grazie. Rossella da Ferrara, buongiorno. Alessandro da Roma. Rossella, io le chiedo buongiorno di essere rapida. Tanto. Buongiorno. La mia domanda era questa: io ho 54 anni, sono già in menopausa da alcuni anni, ma non mi ha dato nessun problema agli occhi, nessun problema di nessun genere. Ho invece 2 anni fa avuto più rotture di retina, per cui mi hanno fatto 7 interventini al laser. Da quel momento un occhio è diventato parecchio secco, mi è stato detto di dare delle lacrime artificiali, io ho provato ma mi davano molto fastidio, per cui ho propeso per utilizzare lacrime naturali di una nota di terboristica. E si trova meglio? In principio mi trovo abbastanza bene, però l'occhio è rimasto estremamente sensibile al caldo, freddo, aria e quant'altro, certo. E soprattutto quando utilizzo il computer per lunghe ore per lavoro. Perché Rossella lì non ammicca, lei non ha sentito essere benessere, Rossella, bisogna ammiccare. No. Ecco, lì l'ho beccata, perché gli ascoltatori di Essere Benessere che lavorano al computer sanno che bisogna, come facciamo lo stretching, come ogni tanto bisogna alzarsi e camminare per le nostre articolazioni, i nostri occhi devono ammiccare. Quindi quando lei scrive al computer, cara Rossella, si ferma e fa un po' di ginnastica, chiude e apre gli occhi in modo che le lacrime l'aiutino. Ma dottor Lo Perfido, a parte questa tirata di d'orecchia Rossella, vorrei chiedere a lei, ci dia delle indicazioni generali per le lacrime artificiali. Rossella ci dice, non so, ne ho usato uno, poi non mi trovavo bene, ne ho usato l'altro, per non fare delle prove inutili che costano soldi, possono dare problemi. Quando ci viene in mente di usare la lacrima artificiale, che cosa dobbiamo fare in un minuto, perché poi io ho Alessandro da Roma? Sì, a parte la tirata d'orecchie, che è saggia, perché è veramente un consiglio per tutti. La seconda cosa è che non esistono lacrime artificiali generiche, perché sotto questa dizione lacrime artificiali e spesso si confondono composizioni diverse del film lacrimale e quindi composizioni diverse di lacrime che devono sopperire a una qualità alterata della lacrima per motivi diversi. Quindi la cosa più giusta è affrontare il problema con una visita oculistica, si fa una valutazione della qualità e della quantità della lacrima, quindi capire se il nostro occhio è secco perché produce più lipidi ad esempio e quindi rende l'occhio non bagnabile, oppure c'ha scarsa quantità di parte acquosa pur avendo una parte lipidica normale. Questo ci induce ad una diversa terapia, quindi le lacrime artificiali non devono essere viste come una sostituzione del film lacrimale basta, ma sono a volte vere e proprie terapie continuative con lacrime che devono essere adeguate al problema del paziente. Molto chiaro, Alessandro da Roma, buongiorno. Mi hanno detto dalla regia che lei ha la soluzione per la guida al benessere, Kowalski Editore. Alessandro. Allora, la risposta credo che sia la seconda, conviene fare il lavaggio dell'occhio. Il lavaggio dell'occhio, dottor Lo Perfido? Giustissimo, giustissimo. Bravo Alessandro! E spieghiamo anche i motivi. Sì. I motivi è che se per caso noi strofiniamo, cerchiamo di togliere il corpo estraneo e non ci riusciamo, molto spesso lo rendiamo molto più profondo nello stroma e quindi più difficile da togliere. La terza cosa, stropicciare un occhio, quindi con la palpebra chiusa, significa creare delle abrasioni corneali. Quindi lavatelo, lavate l'occhio. A domani.